Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Durante la Seconda Guerra Mondiale, molte delle nostre opere d'arte furono distrutte dai bombardamenti degli alleati. Ma se la maggior parte del nostro patrimonio artistico uscì indenne dal conflitto, lo si deve anche al lavoro di un gruppo di militari esperti d'arte che percorsero l'Italia segnalando ai bombardieri i monumenti da salvaguardare. A questi eroi è dedicato il libro di Ilaria Bagnini-Brei, Salvate Venere. Ascoltiamo la lettura di un commento di Marco Carminati dall'inserto culturale del Sole 24 Ore in edicola oggi. Gli eroi che durante la Seconda Guerra Mondiale misero in salvo il patrimonio artistico italiano hanno nomi e cognomi. Si chiamavano Pasquale Rotondi, Gian Alberto Dell'Acqua, Francesco Arcangeli, Cesare Fasola, Giovanni Poggi, Ugo Procacci, Emilio Lavagnino, Palma Bucarelli, Giulio Carlo Argan, Amedeo Maiuri e Bruno Molaioli. Se oggi ammiriamo intatti gli Uffizi o la Galleria di Urbino, la Pinacoteca di Brera o il Tesoro di San Marco, dobbiamo dire grazie soprattutto a loro. Quelli che si trovarono ad affrontare questi mitici funzionari dello Stato nel quinquennio 1940-1945 ci appare ancora oggi incredibile. Allo scoppio del conflitto, misero al sicuro il patrimonio artistico mobile fuori dalle città, in ville o centri minori. Poi, a partire dal 1943, quando l'Italia divenne un campo di battaglia e precipitò nel caos, si prodigarono con coraggio per salvare le opere d'arte dal fuoco incrociato del fronte e dalla bramosia dei tedeschi che le volevano proteggere trasferendole in Germania. Dopo lo sbarco in Sicilia, la propaganda nazifascista s'era fatta martellante. Si disse che le truppe alleate, che avevano già massacrato di bombe Milano, Genova, Torino, Napoli e Roma, avrebbero ora calpestato il sacro suolo italiano, devastando il patrimonio della nazione. Per rendere più efficace il messaggio, si fece leva sul razzismo, lasciando immaginare masnade di marocchini, tunisini, indiani e negri pronti a violentare e distruggere tutto quello che gli fosse capitato tra le mani, opere d'arte comprese. Assuefatti da 20 anni di insulsa propaganda, nessuno dei funzionari italiani cascò nella trappola. Invece di affidare il patrimonio nazionale alla Kunstschutz, l'organizzazione tedesca di salvataggio delle opere d'arte presieduta in Italia da Ludwig Heidenreich, peraltro grande e autorevolissimo storico dell'arte, gli eroi del patrimonio italiano preferirono affidare i loro tesori alla santità di Pio XII, che li accolse prontamente in Vaticano, o preferirono nasconderli in nuovi rifugi di fortuna al nord, come fece Gian Alberto Dell'Acqua coi capolavori di Brera e della Lombardia, che stipò nelle isole del Lago Maggiore. I funzionari italiani compresero presto che la salvezza del patrimonio nazionale minacciato dalle bombe e dai tedeschi sarebbe stata garantita solo dalle forze alleate in arrivo. Perciò cercarono di contattarle. Invece di marocchini violentatori, i funzionari italiani si trovarono di fronte a un impeccabile corpo d'ufficiali anglo-americani appositamente creato in seno alle armate alleate con il compito di salvaguardare il patrimonio artistico italiano mano a mano che il fronte avanzava verso nord. Le imprese di questi 30 ufficiali alleati, non meno rocambolesche di quelle dei colleghi italiani, sono la trama di un libro avvincente scritto dalla giornalista italo-americana Ilaria Dagnini-Brei. Frutto di anni di ricerche e di toccanti interviste agli ultimi testimoni, il volume ci restituisce, col ritmo di un libro d'avventura, il profilo e le gesta di questi ufficiali gentiluomini. Soprannominati ironicamente Venus Fixers dai loro stessi commilitoni, questi tenenti a giusta veneri erano stati selezionati tra il fiore dell'intelligenza inglese e americana. Erano storici dell'arte, direttori di musei, architetti, restauratori e archivisti. I loro nomi oggi ci dicono poco, eppure è anche grazie a loro se oggi l'Italia può continuare a sfoggiare il proprio patrimonio di bellezze artistiche. Si chiamavano Fred Hart, Perry Cott, Douglas Cooper, Roger Ellis, Dean Keller, Ernest The Wold, Basil Marriott, giusto per citarne alcuni. Sappiamo che erano stati arruolati e addestrati già a partire dal 1942 in vista dell'invasione alleata dell'Europa. Prima di partire per la campagna d'Italia, avevano predisposto lunghe liste di monumenti e opere d'arte da individuare e mettere in sicurezza una volta giunti nel bel paese. Parallelamente, alcuni di loro avevano redatto brevi guide artistiche da distribuire ai soldati per renderli più consapevoli dell'importanza culturale e storica della nazione che stavano invadendo. E ci fu anche chi tenne brillanti conferenze alle truppe per prepararle artisticamente allo sbarco. Bisogna sottolineare che la presenza della commissione artistica in mezzo alle forze d'occupazione creò inizialmente non pochi problemi. In effetti, questi ufficiali erano di militari sui generis, indossavano divise impeccabili fatte cucire su misura, portavano foulard di seta intorno al collo e inforcavano eleganti occhiali in tartaruga. Parlavano quasi tutti un italiano perfetto e taluni, per vezzo, quando incontravano un prete, gli si rivolgevano in latino. Capitò persino che uno di loro, entrando in una chiesa a Venezia, si sedesse all'organo e improvvisasse un concerto jazz. Ebbene, questa congrega di azzimati ufficiali pretendeva di sottrarre all'esercito mezzi di trasporto e carburante per salvare quadri e statue, pretendeva di usare i soldati per setacciare le rovine alla ricerca di frammenti architettonici e, peggio ancora, impediva l'accesso dei militari nei palazzi storici di maggior pregio. Ci volle un proclama di Eisenhower per legittimare sul serio il lavoro degli aggiustaveneri. Stiamo combattendo in un paese che ha dato un grande contributo al nostro patrimonio culturale, un paese ricco di monumenti che hanno ispirato la nascita e il progresso della nostra civiltà. È nostro dovere rispettare questi monumenti per quanto la guerra lo consenta. Avuta carta bianca, gli aggiustaveneri entrarono in azione. Fred Hart, ad esempio, lavorò con abnegazione assieme a Giovanni Poggi per portare in salvo i tesori degli Uffizi finiti in ville e rifugi di fortuna e inoltre recuperò le statue michelangiolesche delle tombe medicee da lui rinvenute per caso in un garage immerse in una spanna di gasolio. Dotato di una jeep diventata leggendaria, Hart percorse in lungo e in largo la Toscana compiendo sopralluoghi spesso a ridosso del fronte. Nel dopoguerra rimase legatissimo a Firenze. Nel 1966 corse in aiuto alla città colpita dall'alluvione e più tardi volle eleggerla a sua ultima dimora. Le sue ceneri riposano sulla collina di San Miniato. Dean Keller, invece, si prodigò per la salvezza di Pisa, duramente colpita dai bombardamenti alleati, mentre Perry Cott raggiunse e prese in consegna buona parte del patrimonio di Brera. Quando Cott arrivò sull'isola Borromeo, dove erano stipate moltissime casse braidensi, si congratulò col funzionario italiano Gianalberto Dell'Acqua per il modo eccellente con cui erano state conservate le opere. Dell'Acqua, confuso e lusingato, si sentì in dovere di invitare a pranzo l'ufficiale alleato, dimenticando però che a casa sua non c'era più nulla da mangiare. Cott non si formalizzò, estrasse una razione K e la mise in tavola. Tutti risero. La guerra era veramente finita. Avete ascoltato la lettura della recensione di Marco Carminati al libro di Ilaria Bagnini Brei, Salvate Venere, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Si può finire in galera per un micro post di sole 140 battute su Twitter? Il 26enne Paul Chambers ci è riuscito e forse non ci voleva nemmeno un giudice per rispondere alla domanda che ha già indignato i post-anarchici del web. Su Facebook è subito nato il gruppo Aiuta Chambers, mentre un lettore del quotidiano inglese The Independent ha infiammato il dibattito scrivendo che si tratta di una mossa dello Stato totalitario. Quello di Chambers è il classico caso Glocal. Partito dalla città nel nord dell'Inghilterra dove Chambers vive, Doncaster, sta avendo risonanza mondiale rimbalzando tra blog e testate online. Infatti, il ragazzo inglese era stato arrestato lo scorso 13 gennaio per aver reso pubblica su Twitter l'intenzione di dare fuoco al vicino aeroporto di Robin Hood, se il suo volo fosse stato cancellato, a causa della neve, che non deve essere un evento così raro a quelle latitudini. Non mi è mai venuto in mente che qualcuno dell'aeroporto potesse leggere Twitter o che potessero prenderla seriamente. Era un'iperbole innocua, si è difeso Chambers. ma il giudice Jonathan Bennett, facendo riferimento alla legge sui messaggi minacciosi e offensivi inviati tramite le telecomunicazioni, ha argomentato che un post di questo genere ha una natura minacciosa nel contesto dei tempi in cui viviamo, condannandolo al pagamento di un'ammenda da 1.000 sterline. Insomma, se c'era qualche dubbio, minacciare Vox Populi su un social network di mettere una bomba o farlo da una delle quasi estinte cabine telefoniche è la stessa cosa. Ma anche insultare e diffamare, facendo i dovuti distinguo. Non ci sono zone franche. E pensare che un dibattito che oggi appare oscurantista per le ali estreme del Parlamento Popolare del Web, solo pochi anni fa era un luogo comune. Si chiamava Netiquette, Manuale della Buona Educazione Online. È tempo, prendendo spunto dal movimento letterario del 600 che auspicava il ritorno alla purezza delle origini, di fondare una nuova Arcadia della rete? O basta solo un po' di buonsenso? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Massimo Sideri «Quando non ci sono zone franche», arrestato per la frase su Twitter, dal Corriere della Sera dell'11 maggio.